Il gigante nano 80. Fatti, personaggi e musica di Alberto Chierici, Luca Valdissara, Laura Zavatti, Erika Bellocchio, con la collaborazione di Loredana Martinozzi. La puntata di oggi è un po' anomala nel panorama del gigante nano, un po' anomala perché di tutti i nomi che avete sentito non ce n'è neanche uno presente. Però il problema è ugualmente quello del gigante nano, trattato anche altre volte, cioè un problema di energie, energia nucleare sì, energia nucleare no. Qui abbiamo presente Luca Langianni, che non so se a titolo personale o meno, comunque lui poi esporrà le sue idee, più o meno dovrebbe parlare di questo problema dell'energia. Vedo che qui si è documentato in una maniera notevolissima e spero che possa senz'altro da par suo riuscire ad illustrare questo genere di problema. Vedo che sta ridendo alquanto, forse sarà meglio lasciargli la parola direttamente. Come ha detto Paolo, io sono Luca Langianni e sono qui a titolo personale, anche se appartengo a una forza politica che però per correttezza non dico quale, e sorridevo un po' quando all'inizio della trasmissione, perché non è la prima volta che trasmetto in una radio, ma è la prima volta che sono io dall'altra parte della barricata, cioè sono intervistato. Vorrei parlarvi adesso di un problema abbastanza assillante, di cui pochi capiscono la gravità, ed è quello della crisi energetica. E la crisi degli approvvigionamenti petroliferi, che negli ultimi anni, ed in particolar modo in occasione della guerra arabo-israeliana del Kippur e più recentemente con gli avvenimenti iraniani, ha proposto all'attenzione dell'intera opinione pubblica mondiale un problema fino ad allora conosciuto in tutta la sua gravità soltanto dai circoli scientifici e dalle alte sfere politiche, quello del progressivo esaurimento della più importante fonte energetica mondiale, ovvero sia il petrolio. Quello che è avvenuto ed avviene in questi anni non è sfortunatamente che l'anticipazione di una crisi molto più vasta che avverrà a medio termine. Se infatti il consumo energetico seguiterà al tasso di crescita attuale, che è mediamente del 5% annuo, ed ha quindi, come potete capire, un andamento esponenziale, si registrerà con grande probabilità entro i prossimi 50 anni una penuria complessiva nella produzione mondiale di combustibili fossili. Per inciso, l'esaurimento del petrolio al ritmo attuale di estrazione, comprese le riserve sfruttabili provate, avverrà tra meno di 40 anni. Se non si correrà subito ai ripari per diminuire massicciamente in tutti i settori produttivi la dipendenza dal petrolio, si rischia seriamente un collasso dell'intera economia mondiale. Va quindi senza indugio intrapreso su scala mondiale uno sforzo di ricerca e di sviluppo di fonti alternative di energia, che possiamo quanto prima sostituirsi alle fonti tradizionali, e parallelamente va attuata una seria e rigorosa politica di contenimento dei consumi. Adesso mandiamo un disco e dopo proseguirò con l'analisi della situazione in dettaglio. Questo è Alan Parsons Project, dal disco dal long playing iRobot, il pezzo omonimo. La situazione, come si è visto, è preoccupante e va analizzata in dettaglio per rendersi conto dell'estrema gravità del problema, soprattutto per quanto riguarda il futuro. Un futuro, purtroppo, neanche troppo lontano. Il petrolio greggio e il gas naturale sono attualmente le principali fonti di energia del mondo. E il petrolio e il gas naturale coprono da soli circa il 65-70% del consumo mondiale. Ma queste sono anche le risorse energetiche che si esauriranno prima. Infatti, anche se il ritmo di attuale domanda subirà un rallentamento, le risorse di petrolio e di gas naturale si esauriranno nella prima metà del prossimo secolo. L'eventuale ritrovamento di nuovi importanti giacimenti nei prossimi anni potrà solo posticipare questo termine di qualche anno. Vi è la possibilità di un ritorno alla ribalta del carbone, perché le prospettive sono leggermente migliori. Esso rappresenta il 30% del consumo attuale di energia e le risorse provate al ritmo di produzione attuale basteranno per circa 200 anni. Però nell'anno 2000 si stima che la produzione di carbone sarà quadruplicata rispetto al 1970. E poi questo ritorno alla ribalta del carbone pone diversi problemi all'attenzione, cioè la rimessa in funzione degli impianti di produzione chiusi perché a suo tempo non ritenuti più competitivi, la protezione e il risanamento dell'ambiente e la sicurezza, infine, dei lavoratori delle miniere. Per quanto riguarda le fonti di energia non fossili, esse rappresentano neanche il 7% del consumo mondiale di energia, ed in particolare l'energia idroelettrica e geotermica il 5,6% e quella nucleare l'1%. Inoltre da aggiungere che a proposito dell'energia idroelettrica, che se anche le risorse sfruttate sono di molto inferiori a quelle tecnicamente utilizzabili, dato che l'aumento di domanda di elettricità è molto più alto del tasso di sviluppo della capacità idroelettrica, si prevede che la percentuale di elettricità generata per via idraulica diminuirà sensibilmente col tempo. Inquadrata in questa situazione mondiale vi è quella italiana, che ovviamente, oltre a risentire dell'effetto di questi fattori interni, internazionali, è sottoposta anche all'influenza di parametri prevalentemente interni. È innanzitutto da notare, a questo proposito, che l'Italia importa circa l'88% del suo fabbisogno energetico dall'estero, e per quanto riguarda questo tipo di dipendenza tra i grandi paesi industrializzati dell'Occidente, è seguita solo dal Giappone. Si deve inoltre ricordare che nel 78 il petrolio da solo forniva il 68,5% dell'energia totale italiana contro il 73% nel 1973, e si prevede che nel 90, se procederanno senza intoppi programmi di costruzione di centrali nucleari o di riconversione di parte di quelle termoelettriche esistenti per l'utilizzo del carbone come combustibile, essa rappresenterà ancora il 65% delle fonti energetiche. Siamo quindi di fronte nel nostro paese ad una mancata diversificazione delle fonti energetiche, fra le quali appunto da noi, più che da altri, la fetta più grossa viene costituita dal petrolio e dai suoi derivati. Tutto ciò rende il nostro paese estremamente vulnerabile, e se occorrevano prove in merito a ciò negli ultimi tempi, se ne sono avute a sufficienza nei confronti di eventuali tensioni, interruzioni o riduzioni dei rifornimenti che possono verificarsi nel mercato internazionale grigio. E a proposito del pericolo che queste eventualità si verifichino, proprio il 20 novembre alla conferenza di Tunisi dei paesi aderenti alla Lega Araba, il presidente siriano Assad è tornato nuovamente a minacciare l'uso dell'arma petrolifera da parte dei paesi arabi come mezzo di pressione politica. Inoltre, viene anche da dire che i continui aumenti del prezzo incidono sulla nostra bilancia di pagamenti e sull'economia in misura maggiore che su quella degli altri paesi industrializzati. Nel nostro paese va anche analizzata la situazione della produzione dell'energia elettrica, che è di importanza primaria per quanto riguarda lo sviluppo dell'economia. Questa situazione è a dir poco preoccupante. Già adesso l'Enel è stata costretta a programmare eventuali blackout nazionali per evitare ben più gravi interruzioni di corrente estese all'intero territorio nazionale. E ciò perché è a malapena in grado di far fronte alle ore di punta nella giornata durante le quali si toccano le punte massime di consumo. L'Enel è attualmente in grado di fornire 27 milioni di kilowattora al giorno, e non uno di più, ed in casi non infrequenti si è evitato solo per un soffio il blackout di tutta la penisola. Si prevede inoltre che nel periodo 85-90 vi sarà un vero e proprio buco di 24.840 megawatt, secondo l'Enel, e di 17.416 secondo le stime più prudenziali dell'IEF, Istituto di Economia delle Fonti di Energia dell'Università Bocconi di Milano. Prendendo per buona la seconda previsione, sarà già difficile coprirla con i programmi ufficiali esistenti. Infatti, mettendo insieme tutto il programma idroelettrico, tutto il programma geotermico e i suoi gruppi nucleari, si arriverà a coprire soltanto 11.179 MW, e ciò senza tenere conto dei tempi di realizzazione previsti per la costruzione di gruppi nucleari progettati, due in Lombardia, uno in Piemonte, due in Molise e uno nel Lazio, dei quali solo quello del Lazio, della località di Montalto di Castro, ormai famosa, si è iniziata la costruzione, mentre per gli altri si è ancora in attesa della scelta della località da parte delle regioni. Tempi che sono di costruzione delle centrali nucleari che sono dell'ordine di 7-8 anni. Quindi, cominciando anche subito la costruzione, esse non sarebbero pronte prima dell'87-88. Non coperti vi sono quindi 6.237 MW, che sarebbero da realizzare con centrali a carbone, ma ciò presenta gravi problemi di varia natura e di difficile soluzione. Attualmente la produzione di energia elettrica è di circa 125 milioni di kWh, e il consumo, che in era anticrisi cresceva di 7% l'anno, aumenta adesso del 4,7%, e questa produzione è coperta in massima parte dalle centrali termoelettriche. Secondo stime fatte, una crescita dell'1% del prodotto interno lordo corrisponde a un aumento dell'1,5-1,6 dei consumi di energia elettrica. È quindi necessario per il nostro paese cercare di evitare che un eventuale rilancio della nostra economia possa essere frenato da una penuria di energia. and the image is reflected back to the other side. Could it be that somebody else is looking into my mind? Some other place, somewhere fine. Some other place, somewhere on the Spero di avervi fatto capire quanto sia grave questa situazione, quanto sia preoccupante e quanto rischi veramente di trasformarsi a breve termine in drammatica. Va quindi affrontata con tenendo ben presente quali devono essere i rimedi da adottare, che devono essere adottati subito. Tra i primi, il primo, il più importante, è il risparmio. Innanzitutto, in questo senso, si deve puntare su una maggiore efficienza della parte industriale, migliorando il rendimento degli impianti ed affrontando un programma di riconversione che tenga conto del consumo di energia per unità di prodotto, settore per settore. Secondo alcuni, in questo modo si possono ottenere risparmi di energia per uso industriale del 2-3% l'anno. Inoltre, molto da risparmiare anche nei consumi domestici, specie alle basse temperature, quindi drastica riduzione dei livelli di riscaldamento, dei consumi di acqua calda, scoraggiare particolarmente il riscaldamento a base di energia elettrica. E sempre in questo campo si tratta di incoraggiare la costruzione di case in base a criteri di conservazione termica, e l'adozione da parte dei cittadini, le cui abitazioni non siano adeguatamente isolate termicamente, di dispositivi atti a migliorare questo isolamento, doppi vetri, isolanti termici nel solaio, manutenzione dell'impianto di riscaldamento, eccetera. Per quanto riguarda il riscaldamento, qualche cosa recentemente è stata fatta, limitando la stagione di riscaldamento in relazione alle condizioni climatiche di ciascuna zona del paese e fissando un limite massimo valido in tutto il territorio nazionale, sia per la temperatura sia per gli ambienti riscaldati. Si può considerare che l'adozione di tutte o buona parte di queste misure potrebbe consentire economie dell'ordine del 10-12%, pari, se uniformemente distribuite su tutti i combustibili, ad un risparmio dell'ordine di 3 milioni di TEP. I TEP sono tonnellate equivalenti di petrolio. Risparmi sensibili si possono ottenere anche nel settore dei trasporti, sviluppando i trasporti pubblici, mantenendo i limiti di velocità e intervenendo sulla meccanica di automobili e autocarri. Ulteriori risparmi si possono realizzare mediante il teleriscaldamento, un sistema mediante il quale, come acqua calda per riscaldare le case, viene utilizzata quella proveniente dalle centrali elettriche, usufruendo del vapore che normalmente viene disperso. Con questo tipo di sistema, molto diffuso nei paesi scandinavi e dell'est, mentre da noi è presente solo a Brescia, si aumenta il rendimento della centrale mediamente dal 40 all'80-90% e si realizza un consumo quasi dimezzato di petrolio. Infine, per quanto riguarda specificatamente i risparmi di energia elettrica, si tratta in primo luogo di distribuire più uniformemente i consumi nell'arco dell'intera giornata. Ovviamente bisogna ricercare anche delle fonti energetiche alternative e l'obiettivo appunto è questo a medio termine. Quindi andrebbe in primo luogo incrementata di circa un terzo entro l'85 il consumo del metano, passando gli attuali 22 milioni di TEP all'anno a circa 30-35 milioni. Parallelamente, bisogna aumentare l'uso del carbone vecchio, cioè quello da bruciare direttamente, da 9 a 14 milioni di TEP, dei quali 6 da parte dell'Enel. Ma ciò pone gravi problemi, che in attesa del perfezionamento dei procedimenti di gassificazione e liquefazione del precarbone sono difficilmente risolvibili. Bisognerà infatti trovare il modo di smaltire milioni di tonnellate di ceneri, predisponendo prima tutta un'industria per risolvere il problema. A lungo termine bisogna invece trovare il modo di utilizzare le cosiddette fonti alternative, con costi e rendimenti più competitivi di quelli attuali. Tra queste fonti alternative vi è in prima fila l'energia solare. Questa rappresenta la fonte più ricca, inesauribile e non contaminante di energia che potenzialmente è a disposizione dell'uomo. Gli studi però sono intorno all'energia solare sono ancora a uno stadio preliminare ed è quindi difficile prevedere in quale misura sarà possibile superare i seri problemi che pone una siffatta utilizzazione. La bassa densità dell'energia solare rappresenta un ostacolo grave perché obbliga a utilizzare vaste superfici per raccogliere la radiazione incidente. Ed inoltre, altre difficoltà sono tra l'altro legate alla variazione dell'irraggiamento nel tempo. Inoltre, anche l'energia solare è fonte di problemi ambientali perché il suo uso su vasta scala inciderebbe sull'equilibrio termico della Terra. Le ricerche condotte in questi anni hanno dimostrato che comunque il principale ostacolo per arrivare rapidamente all'uso dell'energia solare è dato dai costi dei dispositivi di captazione, siano essi fotovoltaici o fotometrici. Il costo delle cellule fotovoltaiche per essere competitivo dovrebbe infatti venire ridotto di circa 100 volte e quello dei collettori fotometrici di circa 5 volte. Concludendo, si può affermare che mentre l'energia solare per la produzione di energia elettrica non è ancora competitiva, e forse non lo sarà mai, mediante l'installazione di grosse centrali solari, e quella di Auriano, che entrerà in funzione sperimentalmente dell'Enel nell'81, lo dimostra, perché ha un rendimento di circa 1 MW per una superficie totale di specchi di 7.800 metri quadrati, ad un rendimento del 13%, con un costo di produzione di energia elettrica che è circa 10 volte maggiore di costo di produzione con impianti convenzionali. Comunque l'energia solare può comunque essere già utilizzata con un discreto successo nel riscaldamento domestico, singolo o condominiale, dove l'energia solare può coprire fabbisogni in misura compresa tra il 40 e il 60%, occorrendo quindi anche delle energie integrative in quantità non trascurabili. Dato che all'inizio risulta più costoso utilizzare energia solare invece che combustibili fossili, bisognerà che il governo, per favorire l'uso su larga scala, intervenga con forti sussidi, cosa che già accade in altri paesi, o direttamente tramite prestiti o mediante garanzie di investimenti in questa industria potenzialmente di primo piano. Un'altra fonte alternativa molto importante è l'energia geotermica, che in Italia è attualmente sviluppata solo nel campo della produzione elettrica. Essa però permette di realizzare circa 2,5 miliardi di kilowattora annui, corrispondenti a circa 0,5 milioni di tempo. Insomma, l'elettrificazione di tutta la rete ferroviaria dell'intera Toscana. Il risultato è da considerarsi già importante e giustifica ogni sforzo in questo settore che il nostro paese deve essere indirizzato verso l'individuazione di nuovi bacini potenzialmente sfruttabili anche con le moderne tecniche. Però, anche senza escludere la possibilità di scoprire in Italia nuovi bacini della stessa potenzialità del Lardarello, che è il secondo nel mondo, è comunque difficile che nel 1990 si possa coprire con la geotermia più di qualche percento del nostro fabbisogno energetico, con una produzione che nelle ipotesi più ottimistiche formulate dal Programma Energetico Nazionale non dovrebbe superare i 10 miliardi di kilowattora annui, equivalenti a circa 2 miliardi di tempo. Comprendendo in questa valutazione anche gli sviluppi probabili relativi ad usi come riscaldamento civile e gli usi agricoli. Altra fonte energetica suscettibile di sviluppo è la riconversione dei rifiuti, sia per ricavarne combustibile sia per ricavarne energia elettrica. In media 2 kg di rifiuti, quelli che cioè che produce in un giorno un italiano medio, danno 1 kWh di energia elettrica. Concludendo, si può affermare che la ricerca e l'utilizzo di queste fonti alternative va incoraggiato e promosso, tenendo però presente che anche a lungo termine queste potranno difficilmente essere delle fonti alternative, ma piuttosto delle fonti integrative. è rimasto ad affrontare il problema dell'energia nucleare. A medio termine, cioè entro il 95, è prevista l'entrata in scena su larga scala dell'energia nucleare. La sola centrale di Montaltro di Castro potrà fornire energia per 2,5 milioni di TEP, mentre tutte le centrali previste dal piano energetico ne potrebbero fornire 35. Ma già adesso il programma di costruzione di centrali nucleari è, ad eccezione di Montaltro di Castro, completamente fermo, e ciò anche a causa di resistenze di settori più o meno vasti della popolazione e dell'opinione pubblica. È necessario però ricordare che se non faremo, peggio, continueremo a rinviare la scelta nucleare, rischiamo di allargare il buco già previsto per dopo gli 85 e quindi frenare ulteriormente, più di quanto già non sia per altri fattori, lo sviluppo economico, con imprevedibili conseguenze anche e soprattutto di natura sociale. Adesso vi do un piccolo schema degli impianti nucleari, così che possiate farvi un'idea. Gli impianti nucleari attualmente in funzione si basano sulla fissione nucleare, e quasi tutti sono reattori termici che bruciano l'isotopo fissile U-235, che costituisce lo 0,7% dell'uranio naturale e produce un altro elemento fissile, il plutonio, in quantità minore rispetto all'U-235 bruciato. I processi di arricchimento dell'uranio richiedono molta energia e quindi sono sottoposti ad oneri finanziari ed economici non indifferenti. L'uranio di per sé è abbastanza scarso, dato che le riserve attualmente note, pur essendo notevoli, sono insufficienti a garantire la produzione necessaria negli anni 80. Cosicché è necessario un energico sforzo di esplorazione alla ricerca di nuovi giacimenti. Il mezzo attualmente più efficiente per prolungare la durata delle risorse di uranio sono i reattori veloci autofertilizzanti, che possono avere rendimenti del ciclo del combustibile di più di 50 volte superiori a quelli dei reattori convenzionali, perché convertono l'U-235 in plutonio fissile che in seguito poi bruciano. Il reattore autofertilizzante è stato sperimentato in uno stadio preindustriale e la sua economicità e la stessa affidabilità tecnica sono ancora da dimostrare. Per obiettività bisogna comunque dire che la soluzione del problema energetico mediante l'adozione di reattori nucleari incontra alcune obiezioni in natura di salvaguardia e di sicurezza. In particolare i problemi relativi alla sicurezza sono due: il rischio di guasti o di altri incidenti con perdita di effluenti gassosi radioattivi e lo smaltimento delle scorie stesse. I guasti possono essere causati dall'interruzione simultanea del sistema di raffreddamento normale o di quello di emergenza. È stato però calcolato che le probabilità che entrambi i sistemi di raffreddamento si guastino sono considerevolmente basse e la probabilità che da un tale guasto conseguano danni gravi è ancora minore. La perdita poi di gas radioattivi durante l'esercizio normale del reattore è riducibile a livelli accettabili mediante la tecnologia di contenimento, che viene osservata in tutti i reattori moderni. Invece l'eliminazione delle scorie radioattive costituisce un problema di grave responsabilità per il futuro dell'umanità, dato che una frazione considerevole di guasti di questi prodotti di rifiuto rimane pericolosa per migliaia di anni e dato che non esiste un metodo generalmente accettato per confinarli. Attualmente il problema è risolto depositando le barre di combustibile spento e le scorie radioattive racchiuse in contenitori d'acciaio, in miniere abbandonate di salgemma, oppure inglobando le barre in materiale vitroso a basso costo e seppellendo poi queste colonne, oppure ancora confinando le scorie in depositi sorvegliati fino a quando saranno trovati metodi di eliminazione pienamente accettabili. Gli aspetti di salvaguardia appaiono molto più drammatici perché gli effetti potrebbero riguardare tutta l'umanità. Sotto questo aspetto il primo problema riguarda il controllo delle grandi quantità di plutonio presenti nelle centrali nucleari. Questo plutonio infatti può essere usato come materia prima nella costruzione di bombe atomiche e potrebbe anche servire da arma terroristica, data la sua azione cancerogena per la preparazione di bombe sporche. Vi è inoltre il problema del recupero dell'utilizzazione del calore dissipato, dato che nei moderni impianti nucleari solo il 33% dell'energia viene trasformata in elettricità. In conclusione, con l'energia nucleare è possibile a medio termine integrare significativamente i combustibili fossili per sopperire ai bisogni di energia. Il problema dell'eventuale insufficienza delle risorse occorrenti per gli impianti ad acqua leggera potrebbe essere risolto in prospettiva o ricorrendo ai reattori autofertilizzanti o a quelli basati sul ciclo del torio. Tuttavia, i problemi incombenti con l'energia nucleare sono tali che si deve fare qualsiasi sforzo per sviluppare parallelamente altre tecnologie energetiche. La civiltà di domani, e con essa il nostro paese, non possono infatti permettersi di dipendersi esclusivamente da una sola fonte di energia, e per giunta pericolosa. È indispensabile che il fabbisogno energetico venga soddisfatto con soluzioni che presentano rischi minori. Insomma, concludendo, lo sviluppo dell'energia nucleare va considerato come una scelta limitata nel tempo e nello spazio, a cui ricorrere per colmare il divario tra domanda e offerta durante il passaggio dell'attuale era del petrolio a una nuova epoca, basata su un più ampio spettro di fonti primarie, ed è questa la scelta che deve essere fatta anche e subito nel nostro paese.